America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Dublino, Mario Platero. L'avrete riconosciuto, è l'irno irlandese. Siamo a Dublino non soltanto per una visita formale di Stato del presidente americano all'Irlanda, patria di milioni e milioni di americani, grande alleato degli Stati Uniti, ma siamo qui anche perché il presidente andrà a visitare, anzi sta visitando proprio in questo momento, Monegal. Monegal è il villaggio dove Falmouth Kearney, il padre del suo trisnonno, quindi un trisavolo di Barack Obama, è nato. Questo signore emigrò negli Stati Uniti nel 1850 a 19 anni, arrivò a New York e poi si trasferì a Tipton County in Indiana. Il padre di Kearney, che restò invece a Monegal, Joseph, era il calzolaio del villaggio, che allora, stiamo parlando appunto della fine 700, inizio 800, insomma era un mestiere per benestanti, rendeva molto bene. Ecco, l'intera famiglia Kearney emigrò poi a Ross County in Ohio verso la prima metà dell'Ottocento. Falmouth Kearney era la figlia più giovane che si trasferì in Indiana. Dopo la morte del suo padre, Mary Ann Kearney, e la nonna materna di Stanley Durman, che è il nonno di Barack Obama, e dunque in onore dei suoi nonni, di sua madre, è venuto in questo villaggio prima di andare in Africa. Le indiscrezioni che abbiamo raccolto alla Casa Bianca succederà probabilmente quest'anno, in Kenya, a visitare invece il villaggio di suo padre. Siamo dunque in piena, come avete sentito da queste cornamuse, atmosfera irlandese, e chiudo con una curiosità: in questo villaggio il nome Obama è stato giustamente riscritto all'irlandese O'Bama. Seconda tappa del viaggio di Barack Obama, già a partire da domani a Londra, dove incontrerà a Buckingham Palace la regina Elisabetta. Ci sarà una colazione al Palazzo Reale con le due delegazioni. Nel pomeriggio il presidente visiterà Westminster Abbey. In serata il presidente e la First Lady Michelle saranno a una grande cena di Stato a Buckingham Palace, ospiti di Sua Maestà la Regina. Mercoledì ci sarà un incontro bilaterale, diciamo l'incontro di lavoro, con il primo ministro David Cameron, e ci saranno vari incontri, tra cui un incontro importante con le famiglie dei militari britannici, soprattutto coloro che hanno combattuto in Afghanistan, che hanno combattuto in Iraq. Dopodiché ci sarà una conferenza stampa, e qui cominciamo a entrare nella parte più viva del lavoro, perché tutto questo viaggio poi è propedeutico all'arrivo al G8, G20 in Francia, e con Cameron Barack Obama discuterà soprattutto di questioni medio orientali, del suo progetto per il Medio Oriente, della sua iniziativa controversa in America, male accolta da Israele, quella di tornare ai confini del 1967 come punto di riferimento per il negoziato sul territorio fra israeliani e palestinesi. Non c'è dubbio, si dice che avrà l'endorsement, la sottoscrizione di Cameron su questo punto. E dopodiché ci sarà di nuovo una serata mondanissima, perché questa volta sarà Sua Maestà la Regina Elisabetta ad essere ospite del presidente americano a una cena in suo onore alla residenza dell'ambasciatore americano a Londra, una residenza meravigliosa. Come ha detto Obama, il rapporto con la Gran Bretagna resta il più importante in assoluto fra tutti i rapporti bilaterali che intrattengono oggi gli Stati Uniti. La France, giovedì mattina il presidente lascerà Londra per andare a Deauville, in Francia, dove ci saranno gli incontri del G8. Obama avrà subito, appena arriva, un incontro col presidente russo Medvedev, poi parteciperà a un lunch, a una colazione di lavoro con gli altri 7 grandi, e ci sarà poi anche un bilaterale con il ministro giapponese Kan. È molto atteso questo G8, perché è un G8 che sarà dedicato, da quel che ho sentito dalle anticipazioni che abbiamo avuto dagli ambienti vicini alla Casa Bianca, sarà dedicato, vi dicevo, quasi esclusivamente ai problemi del Medio Oriente. Ci sarà una riformulazione di quello che è stato il discorso di Barack Obama della settimana scorsa, di cui abbiamo ampiamente parlato, e si varerà formalmente un piano economico per aiutare lo sviluppo dei paesi che cercano di intraprendere le riforme democratiche. Quindi si procede rapidamente lungo la strada che cerca di trasformare il mondo arabo, di modernizzarlo, di aprirgli le porte dello sviluppo. Si parlerà naturalmente di Medio Oriente, del processo di pace. Il presidente americano ha cambiato radicalmente la posizione del suo paese, sottoscrivendo l'idea che il negoziato sui territori fra israeliani e palestinesi debba essere basato sul rispetto dei confini del 1967. C'è stato un incontro molto freddo, glaciale direi, tra Bibi Netanyahu, il primo ministro israeliano, e Barack Obama. Netanyahu gli ha detto che questa posizione americana non sarà in alcun modo rispettata da Israele. Non è possibile per noi, ha detto, tornare a questi confini. L'idea è che Barack Obama ottenga l'appoggio degli altri paesi e che si cerchi di spingere Israele in quella direzione. È un rischio politico questo per Barack Obama, soprattutto sul piano interno, perché gli americani generalmente sono schierati più a favore di un paese democratico come Israele, che è stato sempre un fedele alleato degli Stati Uniti, che al fianco dei palestinesi e del loro governo, che è percepito ancora con maggior sospetto. Ultima tappa in Polonia, una tappa rapida, un omaggio simbolico al più importante paese dell'Est, il paese da cui è partita la rivoluzione democratica che ha poi portato al crollo dell'impero sovietico, quindi molto importante sul piano simbolico, perché, dirà il presidente Obama, abbiamo visto come l'emancipazione democratica è possibile, e non solo possibile, ma è possibile vederne poi i risultati in una storia di straordinario successo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Corey Taylor, cantante della band heavy metal Slipknot, è stato invitato all'Università di Oxford a parlare con gli studenti. Taylor andrà in Inghilterra a promuovere la sua autobiografia Seven Deadly Sins, che uscirà il 12 luglio, di Slipknot Duality. I guess I'll take the best for last. My future seems like one big past. You left with me because you left me no choice. I push my fingers and tell me. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get America 24.